A bordo campo di Dario Ricci. Torniamo sulle pendici del Nanga Parbat, oggi qui a bordo campo. Come sapete, stiamo seguendo con grande attenzione la spedizione di Daniele Nardi, l'alpinista sezzese, 36 anni, che sta provando un'impresa mai riuscita prima nella storia dell'alpinismo mondiale: scalare il Nanga Parbat in Pakistan, 8125 metri, uno degli 8000 più alti e più difficili della Terra invernale, sarebbe una prima invernale. Allora, a bordo campo, lo sapete, stiamo seguendo passo passo e direi in tutta Radio 24 questa avventura. E torniamo allora al campo base del Nanga Parbat. Ben ritrovato Daniele Nardi. Grazie a voi, ben ritrovati. Allora Daniele, ti troviamo in una giornata davvero particolare, perché c'è stato questo assalto alla regina delle montagne, no? E com'è andato? Raccontaci un po'. Ma guarda, in questo momento è veramente difficile raccogliere tutte le emozioni e raccontarle così al volo, però ci proverò. Immaginate che il Nanga Parbat, con i suoi 8125 metri in inverno, non è mai stato scalato. E il versante che noi abbiamo scelto, quello di Amir, soprattutto lungo lo sperone Mammeri, non è stato mai scalato neanche d'estate. Quindi quello che stiamo cercando di fare è quello di ripercorrere la storica via che Mammeri provò a fare alla fine degli anni 800, ma non riuscendoci, perché era troppo precursore rispetto ai tempi alpinistici della scalata di montagne di 8000 metri. Infatti Mammeri, quando ci provò nel 1895, purtroppo scomparì alle pendici di questa montagna, proprio su questo pilastro, che è il suo pilastro dedicato a lui. E soltanto 60 anni dopo qualcuno è riuscito, Herman Bull, a scalare finalmente il Nanga Parbat. Quello che noi ci stiamo prefiggendo in questo momento è cercare di ripercorrere un po' le orme di questo grande personaggio, che fu anche così, diciamo, colui che inventò lo stile alpino, questo stile leggero e veloce, e stiamo cercando di applicare lo stile leggero e veloce sullo sperone Mammeri in pieno inverno. Quindi una sfida veramente straordinaria, che ci ha messo per 3 giorni duramente alla prova. Poi purtroppo le condizioni meteorologiche sono cambiate, il nostro naso alpinistico lo ha capito e siamo stati costretti a scendere. E per fortuna che il fiuto ha funzionato bene, perché prendere la neve in testa a 8000 metri non è certo consigliabile, usando un eufemismo. Parli al plurale, perché non sei da solo, sappiamo che ad affiancarti in questa sfida c'è una gentil donzella francese che però insomma ha tirato fuori i muscoli e carattere nei momenti più difficili di questo primo tentativo, vero? Sì, è stato un tentativo veramente difficile, ed Elisabeth Revol, questa ragazza francese con cui ci siamo conosciuti, troviamo molto bene alpinisticamente, riusciamo veramente a fare delle cose belle, perché ci troviamo sia sullo stile ma anche sulla tenacia di poter andare avanti. Ma io ti racconto questo momento: quando siamo arrivati a 6400 metri, dopo aver superato 2200 metri di parete, in 3 giorni di scalata quasi continuative, e quando siamo arrivati a quella quota, pur le previsioni meteorologiche dando un bel tempo, con vento a 30-40 km orari, succede che invece si alza un vento fortissimo e non riusciamo a capire. Allora io provo a contattare l'Italia, insomma è difficile con questi satellitari poi in quelle condizioni estreme poter comunicare. Comunque a un certo punto abbiamo deciso di comune accordo di riscendere questi 2200 metri di parete, che insomma è stato complicatissimo. Ma la cosa bella è che questa mattina un caro amico che ci sta facendo le previsioni meteorologiche ci ha detto qual è il motivo di questo cambiamento, che pensa che le jet stream, che sono questi venti che sono fra gli 8000 e i 12000 metri, dove volano gli aerei, a un certo punto sono impazziti e una corrente a getto, appunto jet stream, si è spostata sopra di noi, sopra il Nanga Parbat, ed è una cosa che dicono meteorologicamente è difficilissimo da prevedere, per cui proprio lui era preoccupato che ci aveva dato il via e l'ok per questo tentativo alla vetta, ma poi c'era stata questa corrente impazzita che ci ha colpito proprio in quel momento. Per fortuna l'abbiamo compreso e, lottando contro il vento e contro la bufera, siamo riusciti a scendere da questa parete molto difficile, pur avendo avuto qualche imprevisto che ci ha quasi costato caro, insomma. Eh sì, vedevo sul tuo blog www.danielenardi.com www.radiocampo.org, così diamo anche l'indirizzo web per chi, per tutti gli appassionati e i tifosi che ti stanno seguendo o che ti vogliono seguire. Vedevo anche che c'è stato un momento davvero difficile, davvero rischioso. A un certo punto hai sentito tirare la corda a cui eri legato e dall'altro capo sotto di te c'era Elizabeth che penzolava nel vuoto, se ho riassunto bene. Sì, caro Dario, e purtroppo è successo esattamente questo, perché capisci che scendere 6.400 metri dopo aver fatto 3 giorni pieni in montagna duri, abbiamo voluto, diciamo, pur di notte cercare di tornare al campo base per rimanere meno in montagna. Poi sai, questo stile alpino molto leggero non prevede di portare dietro molti viveri, e quindi eravamo rimasti senza mangiare, con poco gas per sciogliere la neve e fare l'acqua, quindi cominciava a diventare duro diciamo fare un'altra giornata in montagna, e quindi abbiamo deciso di scendere. Il problema è che la parte difficile, più che difficile, pericolosa di questa montagna, la parte bassa, dove ci sono tantissimi crepacci. Io ho saltato questo crepaccio e mettendo in tiro la corda, Elisabeth purtroppo, essendo un pochettino più bassa di me, non se l'è sentita di fare questo salto, lo ha deviato verso destra, ma purtroppo il manto nevoso non ha tenuto, si è aperto sotto i suoi piedi e lei è entrata nel crepaccio per oltre 3 metri, e quindi ho sentito tirare la corda e automaticamente, come facciamo noi alpinisti, ho piantato immediatamente la piccozza a terra nel ghiaccio per bloccare la sua caduta nel vuoto. Ci sono stati attimi di grandissima tensione, perché lei si sarebbe potuto rompere un braccio, una gamba, insomma, e scendere poi sarebbe stato molto complicato. Invece da gran professionista ha fatto, come diciamo noi, opposizione fra i due bordi del crepaccio, e immediatamente ho visto questa luce che ne usciva fuori. Ci siamo fatti una gran risata, però ecco, anche nei momenti successivi, attraversare questo gigantesco ghiacciaio pieno di buchi, di seracchi, di valanghe che anche all'andata, insomma, ci hanno un po' destato di paura, insomma, è stato abbastanza complicato. Siamo arrivati alle 3 di mattina, alle 3 di notte, diciamo, al campo base, dove Ali Katali e Shams, i 3 componenti del team che ci sostengono qui, ci hanno portato da mangiare, da bere, ci hanno accudito per bene, insomma, per farci riposare. Senti, la prima sensazione a rivedere quelle tendine colorate che volevano dire in qualche modo casa e essere tornati al sicuro, qual è stata? Ma è una cosa fantastica, Dario, ti giuro che io questa notte ho sognato Mammeri che veniva da me e mi diceva: Daniele, anche se non siete riusciti nella scalata, siete arrivati più in alto di me e lo stile alpino è bello e leggero. Cioè, è stato veramente una cosa che mi ha emozionato e è una cosa veramente difficile da spiegare, perché io non mi rendevo conto bene di quale grandezza era questo personaggio, che praticamente più di 10 anni fa aveva tentato qualcosa che oggi gli alpinisti di oggi, con la tecnica di oggi, la preparazione di oggi, fanno fatica a fare. Lui invece l'ha provato alla fine degli anni, praticamente alla fine dell'anno 800, quindi certo, lui purtroppo forse ha esagerato e ci ha rimesso purtroppo la vita, quindi all'epoca era veramente un precursore e creatore dello stile alpino. Quando sono arrivato qui al campo base, vedere quelle tende, il calore di queste persone, di questi pakistani che credono in noi, che vogliono portare in alto il Pakistan anche attraverso le scalate di un italiano e di una francese che provano a realizzare un grande sogno, cioè è stata veramente un'emozione straordinaria. Io credo che terrò duro per avere la possibilità di fare un altro tentativo, ma se dovesse finire oggi la spedizione sarei già più che soddisfatto di aver fatto un tentativo straordinario e bellissimo che mi ha reso tantissima gioia e che credo che potrete vedere già da domani mattina sul mio canale Vimeo, sul YouTube Vimeo, con il video che abbiamo postato da qualche ora. Ti chiedo ancora, come si resiste alla tentazione della vetta? È vero l'esperienza, è vero le condizioni meteo avverse, però immagino anche che la voglia di mettere la vostra bandiera, la tua bandiera, che tra l'altro è la bandiera per il rispetto dei diritti umani, la campagna che hai sposato in questa e non solo in questa spedizione, sia davvero tanta. Qual è la vocina di dentro che sentite e che vi dice: no Daniele, no Elizabeth, adesso no? Guarda, hai toccato un punto che è sempre cardine sulle scalate in montagna, soprattutto queste estreme dove si mette in gioco tanto. Per noi scegliere di scendere è stato veramente molto molto molto difficile. Eravamo motivati, avevamo questa finestra di bel tempo, eravamo in forma, quindi c'è stata veramente dura prendere quella decisione, ma se si tiene alla propria vita, se si tiene allo sport dell'alpinismo, seppur estremo, bisogna avere il coraggio a volte di capire che se la montagna dice di no e se comincia a pensare troppo al vento oppure a quanti metri di dislivello fa in giornata e alle condizioni della montagna, significa che c'è qualcosa che non funziona. Bisogna avere il coraggio di ascoltare quell'istinto che ha fatto di esperienza, visto alla capacità di sentire il meteo e la montagna. Noi lo abbiamo fatto ed è stata la decisione più saggia, perché il giorno dopo lì in quota c'era un vento a 100 km orari, c'erano i cumuliformi di nuvole che dichiaravano l'arrivo del brutto tempo, oggi ha cominciato a nevicare e quindi è significato che noi siamo tranquilli di aver fatto la scelta giusta. È chiaro che mi viene da pensare, se avessimo continuato cosa sarebbe successo? Non lo so, sicuramente avremmo lottato per scendere, però certamente non sarebbe stata una situazione simpatica per nessuno, perché ci saremmo trovati più o meno a 7000 metri e a quelle altitudini, con quel poco ossigeno, a 35 gradi sotto zero, con l'effetto wind chill del vento che abbassa ancora di più la temperatura, sarebbe stata veramente molto molto dura scendere da quella montagna. Insomma, i numeri che, i dati che ci hai dato ci fanno ben capire quali possono essere le difficoltà che avete e che state affrontando. Hai detto però che c'è la finestra, questa è tutto nel tuo cuore, tutto nel tuo animo, per un altro tentativo. Non ti arrendi, c'è ancora la voglia di portare un po' la sfida a quella che è denominata, lo ricordiamo, la montagna mangia uomini. Sì, no, la sfida, la voglia di tornare c'è assolutamente, dopo aver fatto questo primo tentativo che ci ha visto superare comunque più della metà della salita, cioè la parte tecnicamente più pericolosa e più difficile non l'abbiamo superata, quindi adesso conoscendo la via è ancora più facile. E poi ti dico, Dario, come hai detto tu prima, bene, io ho una bandiera importante da portare su in cima, sono 8000 firme di ragazzi su una bandiera per il rispetto dei diritti umani, per la campagna Gioventù per i diritti umani, dell'Associazione Arte e Cultura per i diritti umani, che per me è veramente importante, quindi questi 8000 ragazzi che firmano la bandiera, che dicono rispettiamo i diritti umani, con questa firma te la cediamo, te la diamo per fare la sventolata sul Nanga Parbat in inverno, io non voglio deluderli, o perlomeno voglio fare un altro tentativo per dirgli bene ragazzi, io ho fatto il massimo, ho dato il mio meglio in una situazione veramente molto difficile, poi sarà la montagna a decidere, ma almeno tornerò a casa con la coscienza a posto, sia nei miei confronti della gente che mi segue, ma anche e soprattutto di questi ragazzi, per dire per i diritti umani facciamo il massimo anche quando è inverno e le condizioni sono difficili, è difficile fare le azioni. E poi non ti nego, è anche una questione molto personale per l'alpinismo, scalare questa montagna d'inverno per me è veramente molto importante, sia per la mia carriera ma soprattutto per i miei sogni alpinistici. Sono stato bene in quei giorni lì su in montagna, voglio tornarci per mettermi alla prova e scoprire ancora qualcosa in più di me, della mia capacità di essere dentro questo ambiente così ostile e difficile, ma a volte anche amichevole e fantastico da vivere. Daniele, stasera al campo base che fate? Stappate una bottiglia buona oppure fate un liofilizzato deluxe? No, veramente il cuoco questi due o tre giorni che siamo qui ci ha preparato della buona carne, ci ha preparato della pasta italiana, è stato molto accorto a prepararci una moka con del caffè italiano per rimetterci un po' in forma, quindi siamo tutti in compagnia, sono veramente contento di questo staff, perché è gente straordinaria che incrocia le dita con noi per la scalata della loro montagna, perché io non dimentico mai di ringraziarli, perché non è veramente scontato avere la possibilità di venire qui e scalare le loro montagne. Ci sono delle zone del mondo in cui non si può andare a scalare le montagne, loro ci concedono questo privilegio, io cerco sempre di ringraziarli nel modo migliore, perché sono delle persone fantastiche. Che dire, viva l'Italia, viva il Pakistan, viva la Francia, viva il mondo e viva le montagne, perché sono belle da vivere e vivere le emozioni con gli amici, questo è fantastico. E allora grazie a Daniele Nardi in diretta per A Bordo Campo e Radio 24 dal campo base del Nanga Parbat, lo lasciamo alla sua tazzuriella di caffè, direi pienamente meritata, un abbraccio e mi raccomando, prudenza ma anche forza e coraggio, è il messaggio che arriva dagli ascoltatori di A Bordo Campo. Grazie Daniele. A Bordo Campo. Radio 24 in campo per l'Emilia. Beh, lo sapete, sono giorni particolari. La nostra emittente Radio 24 dedica gran parte della sua programmazione a quell'Emilia squassata dal terremoto del maggio scorso, ma che sta provando con tutte le sue forze a ripartire. E allora scende in campo anche a bordo campo, che vi racconta una storia, un'iniziativa davvero particolare, perché sostegno per l'Emilia arriva da tutta Italia. Allora andiamo a Roma, dove troviamo il nostro ospite Alfredo Fiocco, vicepresidente dell'ASD Rugby Nuovo Salario. Benvenuto Alfredo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Alfredo, perché andiamo a Roma e veniamo a disturbarla per parlare dell'Emilia che riparte dopo il terremoto? Perché lei ha avuto la cortesia di contattarci con una mail molto garbata che inizia con queste parole molto semplici. Sto cercando, ci ha scritto Alfredo, di organizzare un torneo di mini rugby con tema il terremoto dell'Emilia. L'obiettivo è organizzare un torneo tra le squadre romane e del Lazio con la finalità di raccogliere fondi in favore dei paesi colpiti dal terremoto. Ora, iniziativa importante, lodevole, e ci ha colpito il fatto che partisse non tanto dallo sport che di alto livello, ma proprio dalla base, dal mini rugby, dal rugby dei bambini, che tra l'altro proprio oggi festeggia la ripresa, la ripartenza del Sei Nazioni, e proprio a Roma fra poco scatta Italia-Francia. Beh, insomma, direi che è un'iniziativa che sposiamo in toto. E come nasce, Alfredo? Ci racconti un po'. Diciamo, noi come siamo una piccola associazione di mini rugby, ci occupiamo di ragazzi, bambini che sono delle categorie più piccole, quindi dai 5 anni fino ai 14 anni. E crediamo fortemente nello sport, nel valore dello sport come veicolo di messaggi positivi, di oltre che di un sano agonismo, di un sano appunto, movimento per i nostri ragazzi. E, siamo, come dire, appunto, sempre molto sensibili, diciamo, come associazione a quello che ci circonda, e quindi cerchiamo poi di riportare queste tutte le cose che cadono nel nostro intorno anche verso i nostri ragazzi. Beh, direi che insomma il rugby in questo senso forse ha un posto d'onore, no? E da qui continua a leggere nella sua mail: abbiamo messo a punto, scrive Alfredo, un piccolo progetto per coinvolgere le associazioni di Roma e del Lazio ed altre entità che possono collaborare. Ecco, questo progetto a che punto è? Come lo state mettendo a punto per dare concretezza a questo torneo? Sì. Diciamo, noi appunto seguendo la nostra quello che comunemente facciamo poi appunto, è che il mestiere che ci riesce meglio è quello di organizzare dei tornei tra ragazzi, è quello che appunto il mini rugby fa, come sanno le persone che ci lavorano e che lo frequentano, è quello di mettere appunto dei tornei, piccoli tornei tra diverse realtà, quindi diverse associazioni, dove i ragazzi a seconda delle diverse categorie si affrontano competizione, e poi finisce il tutto nel terzo tempo che vede l'abbraccio, no, di tutte le squadre avversarie in un momento, diciamo, goliardico e di festa. E quindi pensavo proprio di partire da lì, cioè dalla nostra realtà, per poter coinvolgere su questo tema, quindi focalizzare su questo tema, riaccendere un pochino i riflettori su quello che è stato il terremoto dell'Emilia, proprio utilizzando questo evento sportivo. E quindi ci sono tutti gli elementi per poter mettere in moto questa cosa. Ci manca un po' appunto l'energia, il catalizzatore, e speriamo appunto di trovarlo in questo momento. Ecco, assolutamente, anche tramite la sua voce, anche tramite gli ascoltatori di A Bordo Campo e di Radio 24. Ora, ecco, di fondo c'è anche il concetto molto rugbistico, ma non solo, di sostegno, no? Di fare lavoro di mischia insieme, di fare lavoro di spinta insieme per ripartire. Sì, è uno dei temi fondamentali, diciamo, dello sport del rugby, quello di viaggiare, no, tutti insieme verso la meta e di sostenersi l'uno con l'altro. E quindi proprio partendo da questo, poi è naturale per noi, come dire, offrire il nostro sostegno nel nostro piccolo, chiaramente, per quello che possiamo, essendo una piccola realtà, ma lo offriamo proprio per poter mostrare che, insomma, appunto, si può ricostruire anche partendo dalle piccole cose, no? Si può ricostruire anche partendo dalle piccole esperienze, dalle piccole realtà che poi costituiscono poi il tessuto su cui si poggia, no, tutta la struttura, la società, insomma. Assolutamente. Poi fare, lo sport è grandi, lo sport discorsi, però, insomma. E poi sappiamo bene quanto lo sport possa essere fondamentale in quest'ottica. Ora, non è tra l'altro la prima volta che scendete in campo con palla ovale sotto il braccio per iniziative di questo tipo, perché già in occasione dell'alluvione dell'autunno 2011 scendeste in campo con i vostri ragazzi per sostenere Genova, no? Sì, anche in quell'occasione ti colpì molto l'atteggiamento del CUS Genova Rugby che subito dopo l'alluvione si mise all'opera, no, nel fango, appunto citando il fatto che nel rugby il fango è un elemento, diciamo, molto comune, molto familiare, ecco, e quindi si misero all'opera per cercare, appunto, di dare una mano alla cittadinanza. E noi nella linea sempre che ci guida, che è quella, appunto, di fare, di vedere, no, concretamente quello che si può mettere a disposizione, abbiamo invitato i ragazzi del CUS Genova Rugby qui a Roma, li abbiamo ospitati nelle nostre famiglie e abbiamo realizzato un piccolo torneo e poi siamo andati tutti insieme a vedere la partita dell'Italia, della nazionale di rugby, Italia-Scozia, che tra l'altro ha visto l'Italia vincere, quindi evitare il cucchiaio di legno l'altro anno, insomma, particolare. La solidarietà porta pure bene, diciamo così. Sì. Allora, si ritorna in campo, si scende in campo e viene pure a bordo campo, così siamo ancora di più, per mettere in piedi questo torneo che sta nascendo in questi istanti in cui ve ne parliamo. Allora, i riferimenti, diamo i nostri contatti, per chi fosse interessato ad aderire a questo progetto, il sito è www.rugbynuovosalario.it oppure la mail di Abbordocampo, cioè abbordocampo@radio24.it. Ripeto, il sito www.rugbynuovosalario.it o la mail abbordocampo@radio24.it. Chiunque volesse prendere parte al progetto, all'iniziativa, ci contatti e vediamo di scendere in campo palla ovale sotto il braccio. Alfredo Fiocco, vicepresidente della SD Rugby Nuovo Salario, grazie per essere stato nostro ospite. La lascio a Italia-Francia che sta per iniziare. Un pronostico è d'obbligo, Alfredo, chi la vince? Noi tifiamo con il cuore, quindi speriamo nell'Italia, insomma. E allora speriamo negli azzurri e speriamo soprattutto che fioriscano tante iniziative in tutta Italia, come quella promossa dalla SD Rugby Nuovo Salario per aiutare l'Emilia a rialzarsi e ad arrivare in meta. Grazie intanto a Alfredo Fiocco per essere stato grazie, nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Valeria Bernardi in regia, vi ricordo che potete contattarci scrivendoci alla mail abbordocampo@radio24.it, riascoltarci sempre attraverso il nostro sito internet www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento, come sempre, è per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.